Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Resterai tutta la notte qui? Sì. Perché? Per la lotta, tutta la notte qua, per difendere i nostri diritti. Chi non è di Roma, dopo una notte passata sotto le tende davanti al Ministero delle Infrastrutture a Porta Pia, torna nella sua città e va via con una convinzione: il corteo del 19 ottobre è stato solo l'inizio di una rivoluzione dal basso, tutti gli altri restano. La campata si trasforma però in presidio, le tende si spostano dalla strada al parcheggio, l'assedio, come lo chiamano qui, va avanti fino a martedì. Per amplificare quelle che sono le lotte sociali sul terreno dell'università, della casa, dei migranti, della precarietà, della povertà. Parte, si torna insieme, io volte come Atene, siamo tutti Red Block, lo sbirro. E intanto il bersagliere di Porta Pia guarda con il suo bronzo sguardo, con il suo polpaccio gagliardo, con il suo fucile impegnato. Cosa penserà mai? Beh, ce lo poniamo anche noi questo problema, ma non è poi un problema, è una maniera per osservare con uno sguardo molto laterale quello che è il fenomeno giornalistico di questa mattina. Occupy Porta Pia sembra quasi qualcosa che appartiene al passato, ma in realtà è una forma attuale, concreta, contemporanea di protesta. Gli acampados sono i ragazzi che, dopo la manifestazione che c'è stata sabato, hanno pensato di lasciare le tende ben piantate di fronte a Porta Pia e occupano Porta Pia, l'assedio a Porta Pia. Poi domani se ne andranno dopo aver incontrato il ministro. Poi nel frattempo non possiamo fare a meno di osservare e ponderare il significato simbolico, non so se i ragazzi lo colgono o l'hanno colto, o comunque sono appesi a qualcosa che per qualche loro reminiscenza scolastica rimane l'immaginario collettivo. Qual è il senso di dire occupiamo Porta Pia? Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento a Roma. Marco Pizzo, il tuo cuore è lacerato in questo momento a vedere tende sotto il bersagliere di Porta Pia, sentir dire occupiamo Porta Pia? No, anzi, secondo me è un recupero di una tradizione storica che in qualche maniera si è considerata interrotta, perché Porta Pia rappresenta l'ingresso delle truppe a Roma che la liberavano dal governo pontificio, ma è sempre stata il simbolo negli anni successivi dell'Italia rivoluzionaria, e questi giovani che vogliono fare la rivoluzione hanno trovato forse anche inconsciamente il luogo simbolico più rappresentativo dove occupare. Io sto guardando delle antiche iconografie, alcune vere, alcune anche un po' taroccate, dell'epoca, contemporanee o posteriori al 1870, in cui viene mostrato il luogo fisico che in questo momento è occupato dalle tende. Rispetto a questa iconografia, tu cosa hai da dire? Lì c'erano i bersaglieri all'assalto, la breccia, le baionette, la resistenza, poi non si sa nemmeno quanto cruenta fino in fondo papalina. In quel luogo fiorì la battaglia, una battaglia non del tutto indifferente. Trovi dei punti di contatto quindi con l'attuale battaglia dei ragazzi che dicono ma passiamo la notte qui, poi domani vediamo il ministro, poi riprendiamo il treno e torniamo a casa. Allora, fondamentalmente la maggior parte delle iconografie che ci stanno su Porta Pia, cioè gli scontri, i cannoni, eccetera, sono immagini veramente false e taroccate, anche perché il luogo dello scontro non era quello, ma sta poche centinaia di metri più giù. Ma la cosa secondo me... Più verso il muro torto, più verso la discesa. Più verso il muro torto, dove c'è attualmente a Roma un bellissimo baretto con le immagini della breccia di Porta Pia nel luogo autentico. E però lì ci stava male la statua del bersagliere, quindi il luogo simbolico deve rispondere anche a una geografia funzionale. Sì, sì, era più comodo che fosse lì l'ingresso delle truppe, era più funzionale, anche perché era il luogo dove si entrava a Roma. Quindi per essere coerenti questi ragazzi avrebbero dovuto piantare le tende lungo la strada dei sottopassaggi che partono da Piazzale Flaminio e salgono su per il muro torto. Certo, si sarebbero dovuti spostare, allora sarebbe stata veramente un'occupazione nei luoghi punti e nei luoghi simbolici veri degli scontri del 1870. Ma ci furono mai accampamenti a Porta Pia, lì attorno, prima dell'assalto, dopo, durante? Sì, sì, ci furono non solo gli accampamenti, ma c'erano le tende delle infermerie, cioè c'erano vere e proprie ambulanze di campo con le tende che curavano i feriti e gli accampati, che durarono anche per decine di giorni, Quindi le tende c'erano, ci sono, anzi forse le uniche foto vere di Porta Pia sono proprio i tendaggi, gli accampamenti delle tende, dei luoghi delle infermerie di Porta Pia. Io leggo sulla cronaca di oggi di Repubblica di una ragazza ferita durante gli scontri che si fa curare appoggiandosi al basamento della statua del bersagliere, quindi come vedi è una rievocazione storica vera e propria, come quelle che fanno le proloco nelle grandi occasioni in cui viene ricostruite epoche storiche non più esistenti, il di maggio, i frombolieri di Gubbio, la Quintana e via dicendo. Quindi loro malgrado hanno fatto una rievocazione storica, questi ragazzi. Non solo, ma poi secondo me hanno anche un altro merito simbolico, che la Porta Pia fu l'unico evento che godette di la fotografia in diretta usata come immagine rivoluzionaria di documentazione storica, perché venne fatta, le foto vere sono di Tuminello, che era un patriota fotografico, fotografo rivoluzionario. E questi giovani che usano Twitter, Internet, Facebook, eccetera, sono le nuove generazioni con i nuovi punti di comunicazione. Ecco, non so se ricordo male, ma gli unici a fare ogni anno una commemorazione a Porta Pia erano, diciamo, gli unici che ancora si sentono fieri del fatto che fu sconfitto lo Stato Pontificio. Sì, infatti per questo dicevo Porta Pia come luogo rivoluzionario, anche perché i caduti di parte papale, cioè gli zuavi pontifici caduti, stanno tutti sepolti nella chiesa dei Cappuccini a Via Veneto, che è il trionfo degli scheletri e il trionfo della morte di Esacco, contro il riformista proprio. Grazie Marco Pizzo, ma l'attendamento temporaneo dei ragazzi a Porta Pia per giuste, lecite e sacrosante proteste dovrebbe farci riflettere in realtà su un attendamento stabile che sta nella capitale d'Italia, ma anche in molte altre città. Quanti sono gli attendati che vivono comunque stabilmente in delle tende, degli accampamenti, magari sotto l'indifferenza, sotto l'occhio distratto dei cittadini? Sono circa 50.000 le persone senza tetto in Italia, il 62% delle quali si trova in questa condizione in seguito alla perdita del lavoro e il 60% per la separazione dal coniuge o dai figli. Circa il 60% dei senza dimora è rappresentato da stranieri, poco più di un quarto ha un lavoro, ma è a bassa qualifica, a termine o saltuario. In media lavora 13 giorni al mese, per circa 350 euro. La maggior parte riceve aiuti in denaro da parenti, amici e volontariato. Circa il 90% delle persone intervistate ha utilizzato una mensa nell'ultimo anno, circa il 70% l'accoglienza notturna, il 63% ha utilizzato il servizio docce e igiene personale. Paolo Pezzana, buongiorno. Buongiorno. Paolo Pezzana è presidente della Federazione degli Organismi per le Persone Senza Fissa Dimora. Mi sembra un'ottima occasione vedere i ragazzi attendati, accampati in un luogo centrale di Roma, come abbiamo sentito anche un luogo denso di significati storici, di rimandi simbolici e via dicendo, per fare il punto. Quando questi ragazzi domani, dopo aver incontrato il ministro Lupi, dopo aver finito la loro protesta, ripiegheranno le tende negli zaini, se ne torneranno ognuno nelle proprie dimore, rimarrà l'idea che però siano state tolte le tende, ma in realtà quante tende rimarranno stabili, ad esempio nella città di Roma o sparpagliate nelle città italiane? I numeri che abbiamo sentito poc'anzi sono quasi tutti riferiti a persone che vivono accampate nelle nostre strade o in rifugi assolutamente precari. Domani i ragazzi se ne andranno e dalle 6 alle 10.000 persone, comprese nei sottopassi del muro torto, continueranno a rimanere permanentemente presenti. Dove rimase carbonizzato uno straniero pochissimo tempo fa, nemmeno un anno fa. Ricordiamo purtroppo molto bene questa tragedia, che è una delle tante che costellano le cronache di questo fenomeno, che emergono, tranne in alcune rare eccezioni come la vostra trasmissione, solo in caso... Dove ancora continuano a dormire, Pezzana, perché se uno va in quel sottopassaggio c'è ancora la macchia di bruciato del cadavere del signore che è rimasto di bruciato, ma ancora c'è gente che dorme nei cartoni. Assolutamente sì, fa parte dei luoghi che con il tam-tam della strada vengono considerati tutto sommato sicuri, quindi quello ed altri luoghi, anche se oggetto di tragedie, poi vengono occupati. Io però spererei che i ragazzi che levano le tende domani incontrando il ministro Lupi possano ricordargli che in Italia abbiamo quasi 30 milioni di abitazioni, sono 29 milioni, di cui 5 milioni oggi sono vuote. Solo a Roma, per ogni persona in lista d'attesa per ricevere una casa popolare, tra le quali molte persone senza dimora, non tutte perché molte sono straniere e non possono chiedere, ci sono 8 case vuote a disposizione potenziale. Quindi c'è un problema su questo mercato davvero enorme e, nonostante questa grande disponibilità, continuiamo a costruire abitazioni destinate a rimanere vuote perché le persone non riescono a pagare i mutui e continuiamo a sfrattare persone a ritmo di almeno 70.000 all'anno che rischiano di andare ad accrescere in termini molto rapidi i numeri, le truppe, per rimanere nella metafora precedentemente utilizzata, che purtroppo oggi sono abbandonate a se stesse lungo la strada. Ma fermiamoci solo un istante, Pezzana, per dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo perché mi sembra che il problema abbia una sua attualità anche oltre quello che è il momento transeunte della manifestazione. Melog, cronache meridiane. Io ho iniziato con una storia un po' particolare, no? Oltretutto che essere laureato sembrava che le cose andassero abbastanza bene. Comunque sono un ragazzo che appartiene anche a una famiglia abbastanza colta, mio padre è un ingegnere, mia madre è un'avvocatessa, però mi sono dato un po' i vizi, no? Tipo la cocaina e l'eroina. Poi vabbè, ho seguito assistenti sociali, ho avuto problemi anche carcerari, che i miei genitori non mi volevano più in casa e tutto il resto. Poi crescendo, maturando, mi sono allontanato da casa, puoi immaginare. Questo per far comprendere e far capire che in realtà le vie d'accesso ai grandi accampamenti stabili all'interno delle nostre città, dove vivono vere e proprie comunità, poi sentiremo con il nostro ospite, comunità che alla fine si danno anche loro ordinamenti, le loro leggi, hanno le loro classi sociali, hanno la loro economia per quanto miserrima. Ma esiste anche la possibilità di dare dei numeri. Sono nascoste in quanto sono invisibili per chi non vuole vederli, ma è sufficiente, parlo per i romani, farsi un giro in bicicletta lungo gli argini del Tevere per vedere quale formicaio sia costruito all'interno degli argini del fiume che attraversa Roma. Ma ci sono un'infinità di zone nella città, il parco di Montemario pullula di Rom che fanno avanti e indietro con il loro carrellino dell'economia da cassonetto nel recuperare oggetti che possono avere un minimo valore, e poi la notte vanno a dormire infrattati, infilati nel bosco di Montemario, sotto l'hotel Hilton, non per fare il pauperista. Sono cose che si vedono, possiamo far finta che non ci sono, ma sono cose che comunque si vedono. Senza tetto, coloro che vivono senza riparo di alcun tipo, che dormono in strada. Senza casa, coloro che dispongono di un posto per dormire a tempo determinato, in istituzioni specifiche o dormitori. Sistemazioni insicure, coloro che vivono in locazioni insicure, sotto la minaccia di uno sfratto o subiscono violenze domestiche. Sistemazioni inadeguate, coloro che vivono in abitazioni quali baracche, caravan, campeggi abusivi, case inadatte o sovraffollate. Paolo Pezzana, ricordo, presidente della Federazione degli Organismi per le Persone Senza Fissa Dimora. Il panorama dei senza tetto è lievemente più articolato e difficile da semplificare rispetto a quello che si legge oggi sui giornali. È così, e anche i numeri lo sono. Quella che abbiamo appena ascoltato è la classificazione in uso nell'Unione Europea, che considera homeless, cioè persone senza dimora, tutte le persone che vivono nelle condizioni appena citate, che vuol dire un numero molto maggiore di quello che abbiamo ascoltato nella prima parte, poiché quello è riferito soltanto alla prima categoria, quindi alle persone che dormono in strada o nei dormitori. Per cui affrontare il problema abitativo significa non soltanto porsi il problema di essere solidali con poche povere persone disgraziate che hanno avuto chissà quale vicende nella vita e si ritrovano malgrado loro nella strada, ma significa porsi un problema che è più strutturale. Qualche settimana fa ero da amici nella città di Cosenza ad incontrare i volontari che operano in questo settore, presentavo la classificazione e alcune persone, anche partecipanti all'amministrazione locale, mi hanno detto: ma se è così, a Cosenza senza dimora al 70% delle persone, visto il patrimonio abitativo che abbiamo. Sembrava una battuta, ma invece indica un problema strutturale che è legato al mercato degli alloggi, è legato alla cultura dell'abitare che in questo paese abbiamo in maniera significativa. Ecco, di questo campione umano, quali sono quelli proprio invisibili, quelli che non vedremo mai in piazza protestare, non avranno nemmeno voglia, tempo, maniera o serenità per piantare la tenda sotto il bersagliere di Porta Pia e fare le manifestazioni? Ci sono due livelli di invisibilità. La prima è quella delle persone che da più tempo vivono in strada e che ormai si sono adattate in maniera negativa ad una condizione disperata, che sono visibili, visibilissime, perché sono quelle che incrociamo circolando per le nostre città, ma non hanno alcuna forza o energia per associarsi e diventare movimento e diventare quindi portare avanti quindi protesta e lotta. L'altra categoria. E cosa sono questi? Scusami la crudezza, prego, vuoti a perdere, andranno ad esaurirsi quando non ce la faranno più fisicamente? Dove vanno a finire? Vanno a finire, come diceva Bauman, nelle discariche sociali del nostro tempo, per cui davvero per molti di loro, stanti così le cose, le situazioni dei servizi, il destino è una morte prematura. Negli Stati Uniti è stato calcolato che l'età media degli homeless che vivono per la strada per più di 5 anni sia di 54 anni, l'età media di una persona in Italia di 80-83 a seconda del sesso, che si può fare facilmente il calcolo di qual è il destino. Poi uno se si chiama Pribi che campa anche 100 anni, quindi se esattamente, esattamente. Non in sistemazioni abitative precarie, ecco, quindi questo fa. No, andiamo avanti, però mi interessa capire. Noi ci siamo già sentiti altre volte, abbiamo visto che in realtà sotto i nostri occhi inconsapevoli o volutamente ignari si sta creando una sorta di sottocittà nelle nostre città, che poi tutte queste persone hanno necessità, nel bene o nel male, di avere un barlume di loro organizzazione sociale. Come si organizzano? Ma l'organizzazione avviene attraverso le reti informali sostanzialmente, da un lato sopperendo alla carenza di reddito, cercando di ricorrere alla raccolta di beni primari, cibo, indumenti e quant'altro, mediante i centri di distribuzione gestiti dai servizi, spesso, anzi quasi esclusivamente dai servizi del volontariato. Dall'altro lato, soprattutto dove ci sono comunità un po' più organizzate, penso alla comunità rom, ma penso anche a qualche comunità di migranti che si sta un po' più organizzando nel senso delle occupazioni e dintorni, si cercano di sfruttare delle microeconomie, a volte pericolose per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica anche di queste stesse persone, pensiamo ai furti di rame, in altri casi invece legata ad esempio al prelevamento di indumenti usati dai cassonetti e alla rivendita nelle piazze o lungo le strade. Sono veri e propri circuiti di microeconomia che però funzionano, e questo secondo me è l'elemento più allarmante, perché tra i clienti, perché non c'è mai un mercato neanche micro se non ci sono dei clienti che acquistano, tra i clienti cominciano ad esserci fasce sempre più consistenti di popolazione che una casa ce l'ha, che non rientra apparentemente nella percezione del grave disagio, ma che sta soffrendo molto la crisi economica e che per arrivare a fine mese si deve inventare qualcosa. Diciamo che loro risparmiano la nostra classe più invisibilmente disagiata lo sporco lavoro di andare a rovistare nel cassonetto. Oggi c'è una pubblicità che gira di una signora anziana che fruga nel cassonetto, per dire la povertà è più vicina di quanto pensi. Ecco, magari va andare al mercatino dei rom e comprare una giacca che era stata buttata via, un oggetto, una suppellettile, evita l'umiliazione di andare personalmente a rovistare nel cassonetto. E con pochi euro consente di procurarsi qualcosa. Tutto questo però è indice di uno scivolamento progressivo che ci sta interessando tutti, e sono scivolamenti che poi, come in tutte le buone frane, a un certo punto si staccano in maniera più pericolosa e causano dei disastri che non possono essere più ignorati da nessuno. La mia paura è proprio questa, che a breve il disastro davvero non possa essere ignorato, non per ragioni morali ma per ragioni oggettive, quindi perché succederà qualcosa di pesante. Tu dici tutto questo pullulare di formicaio sotterraneo prima o poi verrà in superficie, lo vedremo con i nostri occhi. Sì, io temo proprio di sì, e lo vedremo in maniera non piacevole neanche per noi stessi, ecco, quindi una ragione in più per cercare di agire subito strutturalmente. In questo senso io sono grato ai ragazzi che si stanno accampando oggi e che si sono accampati in varie parti d'Europa, quantomeno perché pongono il problema. Spero che non sia una strumentalizzazione di un istante, come spesso è stato, ma che invece possano porre un problema che diventi un problema dell'agenda non solo dei politici ma anche della società civile, perché abbiamo anche noi le nostre responsabilità non aver sottolineato con sufficiente forza questi temi. Ma a parte voi, chi è che si prende a cuore questo tipo di problema? Non so. saprei rispondere con sicurezza. A volte le microcomunità, in effetti nei centri più piccoli, nei paesi più piccoli dove ancora i legami di prossimità sono un po' più forti e dove quindi il problema è numericamente inferiore, quando si presentano forme di disagio abitativo è più facile trovare delle risposte informali, tipo un proprietario di alloggio che, poiché ha conosciuto la persona, gliel'hanno parlato e vede che il paese si mobilita, accetta di farsi pagare l'affitto. Ecco, come sempre avviene nel nostro paese, grazie a buon cuore individuale, non certo per un disegno specifico e programmatico istituzionale. A domani.